7. Ascolta e controlla. 1. Scusi, signora? Sì? 2. Che vuol dire gratis? Vuol dire gratuito. 3. Vieni in pizzeria con noi stasera? Sì, volentieri. 4. A che ora cominci a lavorare? Comincio alle 7. 5. Quando finisce la lezione? Finisce all'1. 6. Vieni con noi al bar? No, ho fretta.